Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona domenica da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. GR che in primo piano ha l'indagine della Procura di Trieste sul commissario straordinario dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale e presidente in pectore Antonio Gurrieri per riciclaggio di denaro. Poi ci sposteremo a Tarvisio che si appresta a ospitare a Fusina il concerto di Mica e a Sappada che sperimenta una nuova viabilità. Sono certo di poter dimostrare di aver agito nella legalità e in piena trasparenza. Il commento del commissario straordinario dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale, presidente in pectore Antonio Gurrieri, in merito all'inchiesta aperta dalla Procura per il reato di riciclaggio di denaro. L'ipotesi è quella di riciclaggio di denaro. Si tinge di giallo la nomina di Antonio Gurrieri, attuale commissario straordinario, a presidente dell'autorità portuale. Come riportato dal quotidiano Il Piccolo e confermato da fonti giudiziarie dei diretti interessati, c'è un'inchiesta della Procura di Trieste che ha indagato Gurrieri per ingenti somme che sono state versate da società di Singapore alla MMG, società austriaca di consulenza fondata da Gurrieri stesso per attività e formazione nei trasporti, di cui è esperto internazionale. Il manager ha ricevuto un avviso di garanzia nelle scorse settimane. La Guardia di Finanza ha compiuto perquisizioni a casa in ufficio, sequestrando materiale informatico. L'indagine è partita a seguito di un accertamento fiscale avvenuto nella società Alpeadria triestina, di cui Gurrieri è amministratore unico. L'avvocato difensore Alessandro Diddi del Foro di Roma si è opposto al decreto di perquisizione e martedì è fissato un'udienza al Tribunale del Riesame di Trieste, a cui però, a seguito dell'interrogatorio avvenuto giovedì, ha deciso di rinunciare. Secondo il legale, la procura ci ha detto che se riusciremo a documentare quello che l'assistito ha spiegato nel corso della sua memoria difensiva, la posizione verrà archiviata. Gurrieri ha diramato una nota alla stampa. In merito all'accusa alla Procura di Trieste, sono certo di poter dimostrare di aver agito nella legalità, in piena trasparenza. Non sono indagato né per le mie attività passate e presenti presso il porto, né per i miei incarichi in Alpeadria, ma per questioni private di cui farò chiarezza. Non consentirò a nessuno, dunque, di offuscare 30 anni di rispettata e onorata carriera. L'avvocato Diddi giudica sospette le tempistiche, ma martedì prossimo in Parlamento Gurrieri avrebbe dovuto essere nominato presidente dell'autorità portuale dopo un mese di impasse, con la nomina rinviata più volte per tensioni all'interno della maggioranza. A questo punto sarà rinviato ulteriormente, sempre ammesso che non salti proprio. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due feriti in un incidente accaduto nella notte sulla strada regionale 53 a Mortegliano, una sola auto coinvolta che si è ribaltata fermandosi su un fianco. I vigili del fuoco di Udine, dopo aver stabilizzato il veicolo, hanno tagliato il tetto dell'auto creando un varco dal quale hanno estratto dall'abitacolo i due occupanti feriti che poi sono stati presi in carico dal personale sanitario per le cure. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 26 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi e 5 decimi, a Gorizia 29 gradi e 5, a Udine 28 e 5, a Pordenone 27 e 5, a Tolmezzo 24 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 22 e 5, a Forni di Sopra 22, a Sappada e Piancavallo 19, sul Monte Lussari 17 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 16, a Grado 27 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 27 gradi, a Lignano 26 gradi, la temperatura del mare 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Nelle prossime ore avremo tempo stabile con cielo poco nuvoloso, variabile nel pomeriggio sulla zona montana, dove non si può comunque escludere qualche locale rovescio sulle Alpi Carniche verso la zona di Sappada, venti a regime di brezza. Per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla da mezzogiorno alle 21 per temporali forti su tutta la regione. Si anima l'estate di Tarvisio anche grazie al festival No Borders. In tanti sono arrivati per il concerto di Mica, che si terrà questo pomeriggio a Fusine, ma sentiamo Diego Bellotto, presidente di Confcommercio di Tarvisio. È un'estate, grazie al meteo che ci sta finalmente dando una mano, un'estate che funziona, che sta andando bene, insomma, abbiamo un buon indice di riempimento. Da dove vengono i turisti? Ma in questo momento magari grazie anche agli eventi organizzati più Italia, però insomma Tarvisio ha provenienze da tutto il nord Europa, l'est Europa, americani piuttosto che francesi o altro, abbiamo veramente tante provenienze. Gli eventi come il No Borders sono importanti per Tarvisio? assolutamente fondamentali, non solo per Tarvisio, hanno un indotto che ruota attorno a questi eventi che è mostruosamente, tant'è che ci sono studi in corso proprio per capire esattamente che indotto portano. Però insomma creano movimento, festa e fondamentali sono. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo in montagna, ma spostiamoci a Sappada, che fino al 31 agosto sperimenta una nuova viabilità. Sentiamo. Per circa 6 settimane la strada regionale 355 sarà interdetta al traffico veicolare in un solo senso, quello in arrivo dal versante veneto da Santo Stefano di Cadore, nel tratto che attraversa le borgate Bach e Palù. L'obiettivo è restituire il centro alla sua vocazione di centro commerciale naturale, rendendolo più sicuro, ordinato, a misura di pedone. Al posto delle auto, spazio a un arredo urbano temporaneo con fioriere e 10 panchine artistiche realizzate durante il recente simposio di scultura. A garantire comunque la funzionalità dell'area, 2 parcheggi a sosta breve. Per gli amanti delle escursioni è stato creato anche un nuovo sentiero pedonale lungo il Piave tra alberi e scorci amati dai turisti. Per il sindaco Alessandro De Zordo è un esperimento che guarda al futuro, un intervento strutturato pensato per migliorare la qualità dell'aria e valorizzare le attività commerciali del centro. Il progetto sarà monitorato per valutarne l'impatto, se l'accoglienza sarà positiva, potrà diventare un modello stabile anche per le prossime stagioni. Primo weekend anche della 5ª edizione di Sappada Gustosa, un viaggio nei sapori della montagna friulana. Numeri in aumento per il turismo sappadino, 8-10% la crescita annua, il 65% la percentuale di quello estivo. Sappada, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri il Golf Club di Padriciano ha celebrato i suoi primi 70 anni con un Open Day aperto a tutti. Oggi si replica con un trofeo al quale poteva partecipare anche chi non pratica questo sport. 70 anni fa il golf era uno sport d'élite, ora si propone al grande pubblico a Trieste, proprio in occasione dei 70 anni di vita del Golf Club a Padriciano, sul primo campo realizzato in Friuli Venezia Giulia per iniziativa del governo anglo-americano, insediato a Trieste al termine del secondo conflitto mondiale. Al tramonto del governo militare alleato, agli inizi del 1955, il campo da gioco venne affidato a un gruppo di appassionati golfisti locali e 70 anni dopo il club ha rilanciato le proprie iniziative con un Open Day. Per l'occasione è arrivato a Trieste il neopresidente della Federazione Italiana Golf, Cerchiai, che ha rilanciato il messaggio portante. Non è vero che è uno sport elitario, non è vero che è uno sport per persone che hanno oltre una certa età, è uno sport perfettamente adatto ai giovani, è ormai uno sport che offre molte soluzioni adatte a tutte le fasce economiche che si vogliono impegnare per giocare, quindi abbiamo avviato dei progetti, avvieremo dei progetti di comunicazione, di marketing. I curiosi del golf hanno potuto provare le basi della disciplina, il gioco lungo, gli approcci e i putt sul green. Punta di diamante del golf triestino, Giulia Sergas, reduce dalle gare statunitensi della Legends Tour e a tutt'oggi la più titolata golfista italiana, ha tenuto un'esibizione dimostrativa ed è stata festeggiata. A chiudere il weekend una gara a squadre aperta a tutti, anche ai non golfisti. Il presidente del Golf Club Trieste, Cristiano Degano. Hanno aderito decine e decine di triestini che sono venuti per avvicinarsi a questo appassionante sport qual è il golf, che purtroppo sconta ancora un po' in Italia la nomea di essere un'attività sportiva elitaria. Se mai lo è stato, oggi non è più assolutamente così. Trieste, Andrea Covre, TGR, Friuli Venezia Giulia. 6ª edizione ieri del quadrangolare di calcio Figli delle Stelle, torneo in memoria degli agenti della polizia Matteo De Menego e Pierluigi Rotta uccisi nell'ottobre del 2019 nella questura di Trieste. È stato commemorato prima del calcio d'inizio dal questore Lilia Fredella anche il mugesano Walter Eddi Cosina, agente di scorta al magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia 33 anni fa in un attentato a Palermo. Come da tradizione si sono affrontate sul campo di Trebiciano le rappresentanze della stampa, quella degli amministratori locali, della Polizia di Stato e della SUGI, a cui è andato il trofeo in una finale terminata ai calci di rigore. Fischietto d'eccezione l'ex arbitro internazionale, il triestino Fabio Baldas. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona e serena domenica. A Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.